Platone, Repubblica, libro ottavo. E va bene, su questi punti siamo ormai d'accordo, caro Glaucone. In una città che debba avere perfetto governo, saranno comuni le spose, comuni i figli maschi o femmine, e comune ne sarà l'educazione in tutto il suo svolgimento. Parimenti comuni ai due sessi gli uffici in guerra e in pace, e dovranno assumere il governo di questa città uomini che si dimostrarono valenti nella filosofia e nelle opere di guerra. D'accordo. Ma anche le seguenti conclusioni abbiamo concordato. Quando i governanti prenderanno le redini dello Stato, condurranno via i soldati e li metteranno in abitazioni del tipo già descritto, dove nessuno dovrà possedere qualche cosa come proprietà personale, abitazioni comuni a tutti. Inoltre ci siamo messi d'accordo, seppur ricordi, su quanto i custodi potranno personalmente possedere. «Oh, ricordo benissimo», disse lui, «non si doveva concedere a nessuno di possedere ciò che gli altri uomini oggi posseggono. Campioni d'opere belliche e custodi dovevano ricevere annualmente, quale mercede del loro servizio, dagli altri cittadini, mezzi di sostentamento per compiere il loro ufficio, particolare dovere, attiva vigilanza per difendere se stessi e il resto della città». «Dici benissimo, ma dal momento che abbiamo finito, cerchiamo di richiamarci alla memoria d'onde è cominciata la digressione, così torneremo al punto di prima». «Non è difficile», rispondeva, «pressappoco come adesso. Tu stavi svolgendo la tua argomentazione come se l'indagine sulla città fosse ormai compiuta. È buono, dicevi, lo stato conforme a quello di cui avevi trattato. È buono l'individuo simile a quella costituzione. Anzi, mi pare proprio, avresti persino avuto modo di citare una costituzione e un individuo più perfetto. Comunque ciò sia, stavi dicendo che, se questa è la forma giusta, le altre sono tutte deficienti». «Delle altre forme di costituzione stavi dicendo, se ricordi, che vi sono quattro specie, quelle almeno di cui vale la pena tener parola. In tal modo, dopo una completa analisi e dopo aver determinato il tipo d'uomo migliore e peggiore, avremmo potuto finalmente indagare se il più buono è veramente felice e se il più malvagio è veramente sciagurato, oppure vedere se la cosa fosse diversa. Ti domandai allora quali secondo te fossero queste quattro specie, e Polemarco, frattanto, insieme ad Adeimanto, interruppero il discorso. Per tal modo, rispondendo alla loro obiezione, sei giunto a questo punto». «Oh», continuai, «hai richiamato alla memoria ogni particolare. E allora, per la seconda volta, come un lottatore, di nuovo alla posizione di prima, ti ripeto la stessa domanda e tu cerca di dire quanto stavi prima dicendo». «Eh sì, se sarò capace. In ogni caso, il mio desiderio è di sentire le quattro specie di costituzione». «Nessuna difficoltà per questa domanda», ripresi. «Sono specie distinte con particolari appellativi. C'è la tanto esaltata costituzione spartana, così nota, e quella cretese. Seconda è ritenuta inferiore alla prima la cosiddetta oligarchia. Di quante sciagure è causa! C'è poi, diversa della precedente e successiva, la democrazia. Ultima la tirannide, famosa purtroppo e dissimile da tutte queste, quarto ed estremo morbo per uno Stato». «E avresti qualche altro tipo di costituzione con caratteristiche precise e determinate? Sta di fatto che altre forme si presentano intermedie e sono comprese tra quelle già dette, per esempio governi di singole famiglie, sovranità acquistate a prezzo di denaro e simili altre, e se ne potrebbero trovare esempi in numero non minore in Grecia e fuori». «Sì, ve ne sono certo, e con strani aspetti», rispondeva. «E non sai allora che tra gli individui è necessario vi siano altrettante specie di caratteri quante le specie di costituzioni? O puoi credere che le forme di governo vengano su dal nulla? Esse hanno origine prima e fondamento nei caratteri singoli dei cittadini, che influenzano i fatti politici e li fanno traboccare a determinate risoluzioni. Certo, replicava, non posso pensare a un'origine diversa. E allora, se le costituzioni sono cinque, anche gli aspetti e le formazioni del carattere individuale si ridurranno pure a cinque. Sì, e cosa ne segue? Che il carattere simile all'aristocrazia, cioè il governo ottimo, l'abbiamo intanto ormai delineato. È buono, si diceva, e giusto con rettitudine, già delineato. Allora bisogna perseguire i caratteri deteriori. C'è un tipo avido di successo, ambizioso, corrispondente alla Costituzione spartana. Poi il tipo oligarchico, il tipo democratico, il tipo dell'uomo tirannico. Così, dopo aver visto il tipo completamente ingiusto, potremo contrapporlo al carattere completamente giusto. Per tal modo l'indagine sarà perfetta. Potremo così scorgere il rapporto fra una completa e pura ingiustizia e una giustizia in pari condizioni. Quali le reciproche conseguenze se si considera felicità o sventura di chi in sé alberga giustizia o ingiustizia? Potremo in tal modo, ascoltando il parere di Trasimaco, seguire con l'opera nostra l'ingiustizia, oppure, ascoltando parola che viene ora in luce, seguire la giustizia. Ma certo, rispondeva, è bene far così. Non credi forse opportuno di far come quando si dette principio all'indagine? Si considerarono prima i tipi di costituzione e poi i caratteri individuali, appunto perché la cosa riuscisse più evidente. Per la stessa guisa, pure adesso, sarà bene considerare prima il tipo di politica costituzione ambiziosa. Non saprei, vedi, con qual nome chiamarlo. Forse il nome esatto è timocrazia o timarchia. E in rapporto considereremo l'uomo simile a quella, quindi l'oligarchia e l'uomo oligarchico, donde passeremo a considerare la democrazia e l'individuo democratico. Come quarto grado giungeremo a città sottoposta a tirannide. Ne considereremo le caratteristiche e, volgendo di nuovo lo sguardo all'anima di un individuo sottoposta pure a tirannide, cercheremo di dare un giudizio conveniente sul nostro argomento. Ordine opportuno, concludeva, l'indagine e il giudizio si svolgeranno assai bene in questo modo. Allora cominciai. Cerchiamo di dire per qual modo la timocrazia derivi dall'aristocrazia. Ma forse il seguente è un principio vero senza distinzione in tutte le forme di governo. Ogni costituzione si tramuta per colpa della parte che regge il governo, quando in questa sorge qualche discordia. Se invece concordia regna, sia più piccola la classe dominante, non può essere scalzata. Sì, è appunto così. In qual modo dunque, continuai, nella nostra città interverranno mutamenti? In qual modo saranno discordi tra loro e con se stessi i custodi che provvedono alla difesa e i custodi che reggono lo Stato? Ti piacerebbe che, come fa Omero, rivolgessimo preghiera alle muse perché ci dicano in qual modo dapprima tumulto invase? Pur essendo un gioco, un discorso di propositi leggeri e scherzosi, quello di cui le muse si valgono nei nostri riguardi, quasi fossimo fanciulli, dobbiamo forse affermare che tale linguaggio presenta tuttavia accenti alteri di nobiltà in tragico tono, consce come sono le muse d'una storità profonda nelle loro parole. Come? Così, pressappoco. È difficile che una Costituzione posta su tali fondamenti subisca mutazioni. In ogni modo, qualunque cosa nasce deve perire. Così, nemmeno questa Costituzione potrà durare perennemente, ma dovrà dissolversi. E la seguente è causa di dissoluzione. Non solo a piante nel grembo di terra, ma ad animali pure su terra viventi, fecondità e sterilità si avvicendano. Quando ciclici giri per ogni singola specie congiungano insieme circonferenze, brevi di cammino per chi ha vita breve, contrarie per contraria condizione. Tempo di bella fecondità e tempo di sterilità per il genere vostro, i capi non potranno procurare per mezzo di calcoli ed esperienza. Quei tempi sfuggiranno e quelli genereranno figli in momenti in cui non si addice. Per divina creatura vi è ciclo cui numero consummante comprende, per umana creatura numero nel quale per primo incrementi dominanti e dominati, dimensioni 3 e punti determinanti 4, avendo cioè accolto incrementi per mezzo di numeri che assomigliano e dissomigliano, accrescono e diminuiscono, rendono ogni cosa socievole e l'una con l'altra razionale. Quando di questi numeri il fondamento dei rapporti di 1 e 1 terzo venga sposato col numero 5, e quando esso 3 volte riceva incremento, 2 eguaglianze da se stesso fornisce. L'una è uguale per tante volte uguale numero, 100, cioè tante volte così. L'altra armonia invece di lunghezza è uguale in una direzione, oblunga tuttavia, è formata da una parte con 100 quadrati di diagonali razionali del numero 5, ciascun quadrato diminuito di una unità, le quali sono 2 nel caso si assumano diagonali irrazionali, dall'altra parte invece formate da 100 cubi di 3. Tutto questo numero suscettivo di dar misura a terreni cicli è signore di cotanto fatto, di migliori cioè o di peggiori generazioni. Se ignari delle leggi di queste generazioni, i custodi porranno insieme spose e sposi contro l'opportunità. Allora i figli non saranno né perfetti di natura né d'ogni qualità bella forniti. Gli uomini della precedente generazione metteranno a presiedere agli alti uffici della città i migliori tra questi nati, che saranno invece indegni e inferiori al loro compito. Pervenuti alla dignità dei padri, cominceranno a trascurare i sudditi, pur essendone custodi, e tenendo le mosaiche discipline in non sufficiente conto e subordinate alle istituzioni ginniche, del tutto inimiche alle muse, le nuove generazioni per voi cresceranno. In conseguenza, governanti indegni della loro missione di custodi saliranno al potere, non più in grado di separare fermamente le generazioni d'Esiodo che sono anche da voi, aurea, argentea, bronzea, ferrea. Insieme quindi ferro ad argento, essendo commischiato, e bronzo ad oro, diseguaglianza si verrà a formare, inarmonizzabile dissonanza. Queste, se si formano e dove si formano, guerra e sedizione generano sempre. Tale l'origine, devi affermare, d'intestina guerra, dove insorge, sempre. Sì, diremo che hanno dato benissimo il responso. Certo, conclusi, ed è anche naturale, si tratta di muse. E allora, disse lui, che cosa svelano successivamente le muse? Insorgendo civile contesa, duplici generazioni, ciascuna per suo conto, da una parte ferrea e bronzea, trascinano al gioco degli affari, al possesso della terra e delle cose, dell'oro e dell'argento. Invece, l'altra generazione, aurea e argentea, di nulla avendo mancanza, ma essendo naturalmente ricca per entro le anime, continua a guidare verso virtù e verso primiera costituzione patria. Sorgono tuttavia violenze e reciproche contese finché i cittadini s'accordino di dividersi terra e cose ed entrarne in possesso. E i capi allora faranno schiavi e terranno in conto di dipendenti quegli uomini che prima custodivano come liberi amici e come tutori. Li spoglieranno dei diritti civili, mentre invece per proprio conto si prenderanno cura della guerra e della difesa dei sudditi. Mi pare, rispondeva, che questa involuzione abbia il suo inizio da questo punto. E la Costituzione, ripresi, non sarà intermedia tra aristocrazia e oligarchia? Non c'è dubbio. E il moto involutivo avverrà nel modo che ho detto, ma come risulterà il governo? È evidente che alcune caratteristiche continueranno a imitare la Costituzione precedente, altre invece saranno rivolte all'oligarchia. Si tratta in realtà di Costituzione intermedia. Altre, finalmente, saranno particolari alla nuova Costituzione. Così, rispondeva. E per la caratteristica di tributare onore ai capi, perché è tenuta lontana dai lavori agricoli, la classe dei guerrieri, e così pure da ogni attività di lavoro manuale e dagli affari, perché si costumano le mense in comune, perché i guerrieri hanno cura della ginnastica e di esercizi militari. Per tutte queste caratteristiche, la nuova Costituzione imiterà la precedente. Al contrario, in quanto temono di far pervenire alle più alte cariche i sapienti, evidentemente quegli uomini non hanno mai potuto vedere persone di tal genere, semplici e di possente proposito, bensì uomini di natura mista, in quanto tendono a toni di carattere troppo focoso e unilaterale, più adatti all'opera di guerra che alla pace, in quanto hanno in onore inganni e astuzie utili per la guerra, in quanto attendono esclusivamente alla guerra, per tutti questi motivi la nuova Costituzione presenterà nel suo complesso un carattere particolare e proprio. Sì, e si volgeranno, continuai, al denaro avidi, proprio come uomini viventi nelle Costituzioni oligarchiche. Adoreranno selvaggiamente nella tenebra l'oro e l'argento, possederanno scrigni e domestici tesori, per riporre e per nascondere ogni cosa. Ci saranno inoltre muri di cinta intorno alle case, veri nidi particolari, e qui, offrendo doni alle donne e a chi è caro al cuore, consumeranno ogni avere. Verissimo, rispondeva. Sì, ma saranno anche stretti nello spendere. Tengono, vedi, e per via clandestina, in gran conto il denaro. Pronti invece a spendere con l'altrui sostanze per dare sfogo alle passioni, anzi a godersi di nascosto ogni capriccio, sfuggendo come bimbi al paterno sguardo delle leggi. In realtà non furono educati secondo criteri di libera elezione, bensì di costrizione. Non hanno dato valore alla vera musa che persegue disputante parola e amoroso uso di sapienza. Hanno ritenuto più veneranda ginnica arte, non mosaica disciplina. Oh, tu stai delineando una costituzione veramente mista di male e di bene. Sì, mista, ripresi, ma evidente è, in modo particolare, un certo aspetto. Vi domina l'impulsività impetuosa della nostra natura, quindi una smodata avidità di successo, un'ambiziosa corsa agli onori. Purtroppo, disse lui. Insomma, questa è l'origine della Costituzione e questa è la sua caratteristica, per quanto si può genericamente delineare con parola una Costituzione senza dar compimento all'indagine. Si potrà in ogni modo vedere, anche continuando con questo lineamento schematico, quale sia l'individuo del tutto giusto e l'individuo del tutto ingiusto. Sarebbe d'altra parte operazione inutile e lunghissima passare in rassegna tutte le costituzioni e tutti gli individuali caratteri, nulla avendo lasciato da parte. È giusto, così concludeva Ademanto. E io, allora, quale sarà l'individuo corrispondente a questa costituzione? Quale l'origine? Quale il carattere? Oh, credo, rispondeva Ademanto, che se si considera questa sete d'onori, non si allontani molto dal nostro Glaucone. Forse, replicai, è così, ma le seguenti caratteristiche non rispondono alla natura di lui. Quali? Il tipo nostro dovrà mostrare una maggiore arroganza. Remoto da mosaica disciplina, ne sarà tuttavia amante. Gli piacerà inoltre ascoltare discorsi e conferenze, ma lui discorsi e conferenze non ne saprà tenere. E questo tipo d'uomo sarà crudele coi servi, non ne avrà disprezzo come la persona ben educata. Inoltre, mite coi liberi, disciplinato e obbediente coi superiori, ansioso di brillante carriera e ambizioso, non pretende di esercitare il suo dominio con l'efficacia della parola o con altro simile mezzo, bensì con l'azione bellica e con le opere attinenti alla guerra. Inoltre, ama la ginnastica e ama la caccia. Nessun dubbio, corrisponde al carattere di quella Costituzione. E allora, con tale natura, finché giovane, disprezzerà il denaro, ma quando poi diventa vecchio, non vede che per quello, avaro com'è, perché la sua natura non è incorrotta rispetto a virtù, egli che non ha potuto avere il custode più perfetto. Quale? Disse Ademanto. disputante parola e mosaica disciplina armonizzate, sole capaci con loro presenza d'apportar salute di virtù a chi in sé la possiede. Hai ragione, rispondeva. Ecco il profilo, replicai, di questo giovane timocratico, avido cioè d'onori e di cariche importanti, del tutto simile a questa stessa costituzione. Indubbiamente. E questo giovane si forma pressappoco così. C'è talvolta un giovinetto figlio, e il padre, uomo da bene, ha sua dimora in qualche città non rettamente governata. Il padre evita onori e comandi e incarichi di giudice nei tribunali. In una parola, tutta questa ansia d'azione non è a lui amica. Pur di non avere noie, è disposto a farsi piccolo. Ma lui come si forma? Quando la madre continua, intanto, a fargli sentire le proprie querele, spiacente com'è che lo sposo non sia nel novero dei governanti e perché si sente minorata in mezzo alle altre donne, inoltre vede che il marito non si dà troppo pensiero del denaro, che, pur offeso dagli avversari, non reagisce per via privata e nemmeno nei tribunali per via di legge. Questo marito che sopporta tutto con tranquillo cuore, in pace, che, s'accorge la sposa, ha la mente tutta rivolta sempre alla propria interiorità. Di lei, poi, della donna sua, pur non trattandola male, nemmeno dimostra di far conto, e lei per tutto ciò soffre e s'attrista e va ripetendo: «Oh, tuo padre, non è uomo, tuo padre, una natura fiacca e molle», e altre cose del genere, le solite cose che le donne vanno cantando su tali argomenti. «Già», rispondeva Adeimanto, «le solite querimonie in corrispondenza col carattere». «E allora sai pure», ripresi, «che anche i domestici di quest'uomo da bene non di rado vanno nascostamente ripetendo ai figli il medesimo ritornello. Supponi, essi vedono che quel padre non intenta azione giudiziaria contro un debitore o contro un altro che gli reca offesa. Cominciano allora le esortazioni e gli ammonimenti. Quando sarai grande, tutta questa gente sentirà il peso della tua vendetta. Tu sarai più virile di tuo padre». E fuori di casa altra simile musica. Vede anzi che chi nello stato pensa alla sua interiorità riceve il soprannome di ingenuo ed è ritenuto uomo di nessun conto. Invece ogni onore e ogni lode a chi pensa a cose che non lo riguardano. In tale condizione il giovane ascolta e vede. D'altra parte può ascoltare anche le parole del padre, ne può vedere da vicino, in confronto degli altri uomini, le azioni, ed è trascinato dall'una e dall'altra parte. L'esempio del padre irrora e fa crescere nell'anima sua la facoltà razionale. L'esempio degli estranei, invece, la facoltà concupiscente e dell'impeto irascibile. D'altra parte, la sua natura non è malvagia, ma sono le compagnie cattive degli altri che agiscono sul suo carattere. Insomma, è strappato dall'una e dall'altra tendenza e viene a trovarsi giusto nel mezzo. Finisce per consegnare il dominio di se stesso alla facoltà intermedia, avida di successi, impetuosa e impulsiva, l'irascibile, insomma. Eccolo divenuto un uomo superbo e avido d'onori. «Oh, mi par proprio», concludeva, «che tu abbia perfettamente delineato l'origine di questa natura». «E allora abbiamo», continuai, «il secondo tipo di costituzione, e così pure il secondo tipo individuale». «L'abbiamo, sì», rispondeva. «E non dobbiamo forse ripetere in questo momento il detto di Eschilo? Altro tipo d'uomo per altro tipo di stato è disposto. Anzi, data la nostra norma, prima vediamo la città». «Benissimo», rispondeva. «Sì, e l'oligarchia sarà successiva, credo, alla detta costituzione. Ma», disse lui, «quale è l'ordinamento che chiami oligarchico?» «La costituzione che si basa esclusivamente sul censo», ripresi. «Qui i ricchi comandano, il povero non ha autorità alcuna». «Capisco», disse lui. «E non conviene forse spiegare come si passi dal governo timocratico a quello oligarchico?» «Certo, Ma anche un cieco può vedere come si passa. Come? Quel famoso scrigno ricolmo d'oro a vantaggio dei singoli. È lui che manda a rovina la Costituzione democratica. Intanto le spese si moltiplicano e, a questo scopo, i cittadini debbono eludere la legge. Essi, per conto loro, e così le spose, non danno più ascolto. Naturale, rispondeva. Avviene poi, credo, che l'esempio ha non piccola influenza e che sorge gara di emulazione. Insomma, la maggioranza finisce per diventare simile a quelli dello scrigno. Naturale. Da questo punto allora, continuai, procedono innanzi e s'accresce l'attività rivolta al denaro e agli affari, e quanto maggiore è il conto che fanno di quella, di tanto più derelitta rimane virtù. Oh, virtù e denaro hanno immenso divario. È come in un piatto di bilancia, puoi porre l'una e l'altro. Ebbene, l'una va su, l'altro va giù. Ma certo, rispondeva. Quando in una città ricchezza e uomini ricchi sono onorati, più spregiata è virtù e meno in conto sono i buoni. È evidente. D'altra parte, si coltiva sempre la cosa che si tiene in pregio, si trascura invece quella di cui non si fa conto. Così. Non più allora uomini avidi di successo e ambiziosi. Ecco, uomini d'affari avidi di denaro, cuori attaccati al possesso. E con ogni lode si esalta l'uomo ricco, ogni stima è per lui, alle più alte dignità lo promuovono, il povero invece lo si disprezza. Certissimo. Si stabiliranno allora leggi quali basi dello Stato oligarchico e si determinerà così il limite necessario del censo. E questo, dove l'oligarchia è più spiegata, sarà più alto, più basso, ove i caratteri oligarchici sono meno pronunciati. Si farà quindi divieto di partecipare al governo per chi non ha sostanza che arrivi a un determinato limite. E questi provvedimenti vengono attuati o per violenza con l'aiuto delle armi, o anche, prima di ricorrere a questi estremi, se ne stabilisce per mezzo dell'intimidazione l'ordinamento. Non è così? Così, sì. Eccoti dunque come si stabilisce questa Costituzione. Sì, rispondeva, ma quali ne sono gli aspetti e quali i difetti? Intanto, lo stesso principio che regge l'intera Costituzione, perché osserva un po'. Supponi alcune navi. Il timoniere per simile modo lo si sceglie in base al denaro. Un povero può essere più esperto nella navigazione. Viene cacciato. Brutta navigazione, disse lui, faranno. La stessa cosa non avviene forse anche per ogni altro qualsiasi esercizio di autorità. D'accordo. E ne escludi gli uffici politici? Ripresi. O non avviene lo stesso? Purtroppo, rispondeva, e tanto più in quanto l'ufficio politico abbia carattere di difficoltà e di importanza maggiore. Ecco dunque questo uno dei difetti più gravi dell'oligarchia. Evidente. E senti. Il seguente è forse minore? Quale? Non più una sola città, bensì due, quella dei poveri e quella dei ricchi, nello stesso luogo e l'una sempre all'altra avversa. Oh, non è un difetto più piccolo, ma nemmeno la seguente è una bella cosa. Si troveranno in difficili condizioni se si tratta di iniziare una guerra, fatalmente addotti o a far uso del popolo che dovranno armare, e quindi temerlo più che gli stessi nemici, oppure, non facendone uso, lasciar vedere che veramente sono oligarchi, cioè pochi, e per di più nel combattimento. D'altra parte, non vorranno pagare i tributi di guerra, attaccati come sono al denaro. Brutta cosa. Senti questa. Quel difetto che, già è molto tempo, abbiamo biasimato, svolgere cioè attività dispersa e frammentaria. Fare il contadino, l'uomo d'affari, far la guerra. Ebbene, non si verifica forse nella Costituzione oligarchica? E ti par che vada bene? Niente affatto. Osserva, il seguente è forse il più grande di tutti questi mali, eppure l'oligarchia è la prima a subirlo. Quale? È concesso alienare interamente il proprio avere. D'altra parte, chi ha alienato il proprio avere? può continuare a dimorare nella città, pur non appartenendo a nessuna delle sue classi, non più uomo d'affari, non artefice, non cavaliere né oplita, un povero diavolo e senza mezzi, questo è il suo nome. È la prima, sì, a subirlo. E a questo grave inconveniente, nelle costituzioni oligarchiche, non si cerca affatto di porre un rimedio. In caso contrario, non ci sarebbero i plutocrati e i poverissimi. Giusto. Sta attento a quello che viene. Quando il nostro uomo era ricco e pensava solo a spendere, dava forse il contributo dell'opera alla patria per gli uffici di cui si diceva ora? Invece aveva soltanto un'apparenza d'autorità, nel fatto che non era né capo della città né suddito, uno scialacquatore e basta. Così credeva d'essere qualche cosa, era soltanto un uomo che dissipava il suo avere. E cosa penseresti, dissi, se affermassimo che, come i fuchi nascono nell'alveare a rovina dello sciame, così quest'uomo è fuco nella casa sua, è rovina nella sua patria? Che hai perfettamente ragione, rispondeva, o Socrate. D'altra parte, Iddio ha fatto gli alati fuchi senza pungiglione. Per quanto invece concerne questa gente senz'ali, taluni sono senza pungiglione, altri invece hanno quest'arma, è terribile. E quelli che non hanno il pungiglione finiscono mendichi nella vecchiaia. Tutti i malfattori invece derivano dai fuchi forniti di pungiglione. Verissimo, rispondeva. Chiaro dunque, continuai, che dove vedi i mendichi ci sono anche nascosti ladri, tagliaborsi e saccheggiatori di templi e altri operatori di simili malanni. Chiaro? Senti allora, e non ne vedi mendichi nelle città oligarchiche? Sì, rispondeva, tutti, escludi nei capi. E non dobbiamo credere, dissi, che ci siano anche molti malvagi tra costoro. Hanno il pungiglione, e i magistrati a forza, in tutti i modi, li tengono a freno. Certo. E non diremo che l'insufficiente sistema educativo, il basso tenore di vita e la condizione stessa dello Stato producano simile categoria di individui? Lo diremo. Ecco dunque, allora, è questa la città oligarchica, questi i gravi suoi difetti, e forse anche ve ne sono di più. Pressappoco sì, rispondeva. Bene, anche questa è finita, conclusi. La Costituzione, cioè, che si dice oligarchica, quella che in base al censo sceglie i governanti. Poi continuai. E adesso, su via, consideriamo l'individuo che le corrisponde, come si formi, quale ne sia il carattere. Certo, rispondeva, e non è vero che in questo modo avviene il trapasso dall'uomo democratico, cioè avido d'onori, all'uomo oligarchico. Come? Quando il figlio del timocratico dapprima imiti il costume del padre e ne persegua le orme, ma poi vede che il padre subitamente urta, come contro scoglio a fior d'acqua, contro l'istituzione della patria, dopo aver profuso le sostanze e se stesso nell'esercizio di stratega o attendendo a qualche altro incarico importante, ecco, si imbatte in un tribunale e, maltrattato dai delatori, è condannato a morte oppure all'esilio, oppure privato dei diritti di cittadino, perde ogni avere. Probabile, sì, rispondeva. Sì, amico mio caro, è testimonio di queste vicende, di cui anzi sopporta le conseguenze perdendo il patrimonio, è il figlio che, credo, si sente percosso da terrore pensando alla propria vita. Allora egli caccia via dal trono, eretto nell'anima sua, quell'ambizioso sogno di onori, quell'impeto impulsivo dell'irascibile. Ecco, fatto tapino per povertà, si volge agli affari per far soldi, avidamente, e a poco, lesinando sulle spese e continuando a lavorare, raccoglie denaro. E non credi che un tale uomo allora faccia assidere sul trono dell'anima sua la passione concupiscente, la brama di denaro? Certo, questa passione metterà in se stesso sovrana, come il re dei persiani, la farà adorna di magnifica tiara, monili e ricurva spada. Lo credo certo, rispondeva. E allora comanderà che di qua e di là, per terra, sotto il trono di quel re, stiano sedute facoltà razionale e impeto di carattere, e l'una e l'altra farà schiave. Allora non consentirà di discutere su altre cose. Null'altro vorrà considerare se non il mezzo con cui poter accrescere a dismisura la ricchezza. All'altro, invece, all'impeto e all'impulso del carattere, non consente di ammirare nulla, di onorare altra cosa che non sia denaro e gente ricca. Null'altro ambire se non possesso di denaro e mezzi che conducono all'acquisto di denaro. Non v'è altra trasformazione così rapida e violenta come questa, da un giovane con ideali d'onori e di successi politici al giovane avido di denaro. E non è appunto questo, replicai, il giovane oligarchico? Sì, è cambiamento in natura di individuo corrispondente alla Costituzione donde poté sorgere l'oligarchia. Vediamo dunque se davvero è corrispondente. Guardiamo pure. Intanto non è un fatto che, se si guarda la stima esagerata del denaro, la similitudine è perfetta. Come no? È anche perfetta se si guarda quel suo vivere parco e operoso. Egli dà soddisfazione solo ai necessari bisogni, ogni altra spesa resta esclusa. Tutti i desideri vengono ridotti in servitù perché inutili. D'accordo. Si tratta di un uomo sordido che cerca di trarre guadagno da ogni possibile mezzo. Tutto mette da parte e ne fa tesoro. E la gente non esita a colmar d'elogi tali nature. Non ti pare che sia simile a quella Costituzione? Certo, mi par di sì, rispondeva. Non c'è dubbio, il denaro è in onore presso questa città e presso quest'uomo. Senza dubbio, ripresi, perché nemmeno penso che si sia dato a particolari studi per formare la sua educazione. Oh, non credo, esclamò. In caso contrario, non avrebbe accettato un cieco duce per il coro delle sue passioni e non l'avrebbe posto in precipuo onore. Bene, continuai. Osserva quanto segue. Non dobbiamo dire che in lui, per mancanza di studi, vengono a sorgere desideri similianti a fuchi, gli uni meschini, gli altri malvagi, tenuti a freno con fatica dall'altra passione che tutto lo domina? Senza dubbio, rispondeva. E allora, sai dove, volgendo lo sguardo, ne potrai vedere le malefatte? Dove? Guardalo un po' quale tutore d'orfani. Guardalo quando potrà amministrare uffici del genere, nel caso che egli abbia possibilità di fare il male. Vero? E con questo non appare evidente un'altra cosa. Anche in altre sue prestazioni, pur godendo di buona fama, in quanto fa vedere di essere giusto, il nostro uomo trattiene fermi gli altri suoi malvagi istinti solo esercitando una coercizione. Certo non può infondere persuasione che questo è il partito migliore, non può renderli miti per forza di ragione, ma costrizione e terrore, in quanto ha paura di perdere ogni avere. Non c'è dubbio, rispondeva. E anzi, amico caro, in molti di costoro potrai facilmente trovare istinti di natura simile a quella dei fuchi, nel caso principalmente che si tratti di spendere l'altrui denaro. Senza dubbio, disse lui, e in particolare modo. E allora il nostro uomo sarà interiormente pieno di contrasti, non sarà più un solo uomo, ma un duplice strano essere, e i suoi istinti peggiori per lo più supereranno gli istinti più nobili. È così. Per questo motivo, appunto, il nostro uomo avrà un contegno più decoroso di molti altri, ma la vera virtù di un'anima, raccolta in armonia e con se stessa consenziente, puoi star sicuro, va fuggendo lontana da lui. Mi pare di sì. In ogni modo, quest'uomo tirchio non sarà un avversario pericoloso se sorgono rivalità per partecipare a qualche premio o concorrere a qualsiasi ambita gara. Certo non ne vuole sapere di rimetterci del suo per la bella gloria di un concorso. Grande è il suo terrore di ridestare in se stesso passione di folli spese e di dover chiamare in aiuto, per trionfare sugli avversari, questa passione stessa. Così conduce battaglia con piccola parte delle sue forze da buon oligarca. Nelle gare cui partecipa, resta vinto il più delle volte, ma conserva il suo denaro. Certo, diceva lui. E possiamo avere qualche dubbio? Questo individuo tirchio e dedito agli affari non dovrà essere annoverato in relazione a un ordinamento oligarchico? Nessun dubbio, rispondeva. Allora si tratta, con successiva indagine, di guardare la Costituzione democratica, vedere poi in qual modo venga formandosi e quale ne sia la caratteristica una volta formata. Così, in un secondo momento, delineato il carattere dell'individuo che a quella corrisponde, potremo procedere al giudizio di confronto. Sì, sarebbe un procedimento coerente al nostro metodo. Allora, cominciai, il moto involutivo dall'oligarchia alla democrazia è pressappoco il seguente: insaziabilità nel possesso del bene riposto nella ricchezza che si ambisce grande il più possibile. Come avviene? Siccome nell'oligarchia il cittadino diventa partecipe del governo in misura di ricchezza posseduta, non si vuole impedire per legge a gioventù sfrenata di disporre del suo, di spendere e dilapidare il proprio patrimonio, col fine appunto d'acquistarne i beni, oppure di fare ad usura qualche prestito, mezzo opportuno per acquistare ricchezza più copiosa e salire così a più grandi onori. Oh, senza dubbio, ma allora è chiaro che in uno Stato è impossibile perseguire ricchezza e contemporaneamente fare esercizio di temperata e interiore armonia. Non si sfugge da questo dilemma. O si trascura una cosa, o si trascura l'altra. È proprio chiaro. In un regime oligarchico, i cittadini, vivendo una vita di negligente inerzia e volgendosi all'intemperanza, finiscono senza scampo per ridursi in povertà, uomini di nascita non oscura. Oh, certo, eccoli allora, se ne stanno in patria, muniti di pungiglione e forniti di armi, e gli uni pieni di debiti, gli altri ormai lontani da ogni politica attività. E non manca chi riunisca in sé l'una e l'altra condizione. Nutrono odio inestinguibile e si volgono a preparare ogni insidia, sia contro quelli entrati in possesso di quanto avevano, sia contro gli altri tutti, gente insomma avida di novità. È così. Gli usurai, intanto, a testa bassa, facendo mostra di non vederli, continuano a far passare il denaro, prestandolo ad altri che via via si offrono ai colpi. Così li feriscono a morte, ricevono moltiplicati interessi accumulantisi col primo interesse e producono nella città un numero infinito di fuchi e di mendichi. E come non dovrebbe essere un numero infinito? I governanti poi non vogliono, ripresi, spegnere nel modo già detto la sciagura che quale incendio si propaga. Essi che potrebbero impedire per legge ai singoli di sciupare il patrimonio a capriccio, inoltre potrebbero procedere anche in altro modo, per mezzo di altra legge, insomma, provvedere a questo male. Quale legge? Una legge che tien dietro a quella prima e che costringe i cittadini a pensare un poco alla virtù. Nel caso infatti che questi volontari prestiti avvenissero a rischio e pericolo di chi offre il denaro, certo, allora l'usura imperverserebbe meno nello Stato e in numero minore sorgerebbero i mali che ora si dicevano. Ma certo, disse lui. E ora, continuai, per tutti questi motivi, chi detiene il potere riduce a simile condizione i sudditi. In quanto poi a loro personalmente e ai figli, cosa potrà poi avvenire? I giovani vivranno nel lusso e nell'ozio completo, sia per quanto riguarda la vita fisica come pure la vita spirituale, molli nature, incapace di reggere agli allettamenti del piacere, al morso del dolore, gente del tutto inerte. Sì, certo. E i genitori? Gente trasandata in tutto, ma non negli affari, gente che di virtù non fa stima maggiore di quanto possano far stima ad un povero. Non ne fa stima maggiore, no? In queste condizioni, supponi, avviene che governanti e governati si ritrovino insieme. Può essere in un viaggio, in qualsiasi altra riunione, una festa religiosa, un'impresa militare, una spedizione per mare, anche per terra, compagni di battaglia. Allora l'uno può notare il contegno dell'altro nei momenti del pericolo, e il povero non può essere più disprezzato dal ricco. Anzi, non di rado, un povero diavolo, scarno e bruciato dal sole, si trova schierato accanto a un ricco, cresciuto lontano dal sole, pingue di carne che non è sua. Ebbene, lo scarno s'accorge che il nostro pingue ha il respiro corto e che non sa a qual partito attenersi. Allora lo scarno finirà col pensare che la gente pingua è ricca perché lui, lo scarno, per ignavia glielo concede. Allora ecco, quando i poveri si trovano insieme, si sparge rapida voce: questa gente è nostra, uomini da nulla. Sono convinto, per conto mio, così faranno. Avviene allora come per un corpo non sano. Basta piccola causa esterna per cadere in malattia. Talvolta, anzi, senza causa esterna, l'organismo finisce per subire interne crisi, quasi interne rivolte e sedizioni. Allo stesso modo, lo stato che si trova in condizione analoga a quell'organismo, basta piccola causa. Per esempio, gli uni sollecitano un'alleanza da una città oligarchica, gli altri da una democratica, un aiuto esterno in ogni caso. Questo è il motivo di malattia, e la città allora con se stessa combatte. Talvolta discordia e guerra civile incedono senza causa esterna. Certo, insomma, democrazia sorge quando i poveri abbiano il sopravvento, e in quanto agli avversari uccidono gli uni, gli altri cacciano via. Ai rimanenti, in piena eguaglianza, fanno parte del governo e degli uffici. Anzi, il più delle volte in questo regime, distribuzione degli uffici viene fatta per sorteggio. Sì, è questa, rispondeva, l'origine dell'ordine democratico, a mezzo dell'armi o in quanto gli avversari siano rimossi e cacciati per paura. E io allora? E quali saranno i criteri e i sistemi di questo governo? Qual è il carattere di questa Costituzione? È certo che l'individuo corrispondente ci apparirà democratico. Certo, rispondeva. Gente libera, allora. Di libertà tutto lo Stato è pieno. Si concede a tutti libertà di parola. Ognuno può fare quanto gli piace. Eh sì, così si dice, rispondeva. E dove c'è tale licenza, ciascuno per conto suo conformerà la propria vita a quei criteri che più gli vanno a genio. Chiaro. E allora in questa Costituzione ecco varietà infinita di tipi. Come no? Guarda, guarda, esclamai, questa è proprio la più bella di tutte le Costituzioni. Pensa a una veste policroma, variegata con disegni innumerevoli di fiori, così anche la nostra Costituzione. Come bella, con l'innumere varietà dei suoi tipi, e non c'è dubbio, molti la giudicheranno magnifica, proprio come i bimbi e le donne che guardano a bocca aperta i tessuti variopinti. Certo, rispondeva. In ogni caso, beato te, esclamai, è molto facile cercarvi una Costituzione. Perché? Perché, data l'immensa licenza, sono in lei racchiusi tutti i tipi di Costituzione. Forse, anzi, chi vuol sistemare una città, stavamo appunto facendo questo, farebbe bene recarsi in una città democratica, e lì potrà scegliere quel tipo che più gli va a genio. Gli si presenterà certo un emporio di costituzioni, scelga dunque e ponga i fondamenti al suo Stato. Rispondeva, non gli mancheranno certo modelli. D'altra parte, continuai, che vita magnifica, che immenso piacere, per il momento almeno. Pensa, non c'è nessuna costrizione che ti imponga ad esercitare un'attività politica, nemmeno se dimostri qualche attitudine. Nessuna costrizione che ti imponga di prestare obbedienza, se obbedienza non ti va a genio, di far la guerra, anche se la tua patria sarà in guerra, d'osservare le norme del tempo di pace, quando la pace non rientri nei tuoi piani, anche se gli altri tutti siano tranquilli e in pace. D'altra parte, supponi, la legge impedirebbe che un cittadino accettasse una certa magistratura oppure esercitasse ufficio di giudice. Ebbene, nulla meno il cittadino potrà esercitare quella magistratura, potrà fare il giudice, se così gli garba. E non ti pare che per il momento sia stupefacente e gradito questo modo di vivere? Gradito, sì, rispondeva, ma temporaneamente. Senti, e non è magnifica la tranquilla sicurezza di taluni condannati? Hai mai veduto nella nostra democratica Costituzione cittadini condannati alla morte o all'esilio? Ebbene, rimangono dove sono e continuano a girare in mezzo alla gente e, come se nessuno se ne dovesse dar pensiero, come se nessuno li vedesse, continuano a incedere per le vie, impettiti come creature d'un ordine superiore. Sì, e molti. E quello spirito d'universale indulgenza, quella ineffabile magnanimità, ma soprattutto quel disprezzo di quanto noi, pieni di rispetto e di venerazione, abbiamo stabilito quando si fondava la città e si concludeva che, a meno di essere fornito di eccezionali doti di natura, nessuno potrà riuscire uomo per bene se subito, fin da fanciullo, non potrà giocare in ambiente ove bellezza abbia degna sede, se le azioni non siano informate a bellezza. Ebbene, tutti questi principi, tutte queste teorie, la democrazia calpesta sotto i piedi, tutte quante. Democrazia non si dà pensiero di preparare chi si accinga a diventare politico, pronta ad attribuire ogni onore, purché si affermi di nutrire alti sensi di benevolenza per il democratico regime. Oh sì, rispondeva, una magnifica costituzione, davvero. Questi dunque, replicavo, i caratteri, e altri simili a questi democrazia ne presenta. Oh, una costituzione veramente piacevole, variopinta e senza nessuno che comandi. Si distribuisce eguaglianza a piene mani a chi è uguale e a chi è uguale non è affatto. Fatti assai noti sono questi che dici. Sta attento allora, continuai, e vediamo chi le è simile nella vita individuale. O non credi che si debba vedere prima in qual modo l'individuo si viene formando, come si fece per la Costituzione? Sì, rispondeva. E non è così? C'è quell'uomo tirchio e oligarchico, gli nasce un figlio, suo padre lo tira su secondo il proprio carattere. Può darsi. Anche il figlio allora arriva con violenza a imporre un dominio sul desiderio di piaceri. Di essi alcuni sono dispendiosi e non apportano guadagno alcuno, quelli che si chiamano piaceri non necessari. Chiaro, rispondeva. Cosa ne diresti se per discutere con un po' d'evidenza cominciassimo intanto a dividere i desideri in necessari e non necessari? Va benissimo, disse lui. Allora, quei desideri che non siamo in grado di respingere saranno giustamente chiamati necessari, e così quelli che, se addotti a compimento, ci danno vantaggio. La natura umana necessariamente dovrà in sé nutrire gli uni e gli altri, o no? Senza dubbio. E allora potremo pronunciare giustamente per questi il nome di desideri necessari. Giustamente. Senti allora, vi sono desideri di cui ci si potrebbe liberare se, sin da fanciulli, ci si sottoponesse ad opportuno esercizio spirituale, desideri il cui effetto non è buono, ed è anzi un effetto opposto al buono. Non ti pare che sarebbe giusto chiamarli tutti desideri non necessari? Giusto, sì. Vuoi che scegliamo un esempio dell'uno e dell'altro genere per vedere come sono? Così potremo comprenderne la caratteristica per mezzo di un tipo manifesto. Certo, va bene. Non ti pare che, per esempio, necessario sia il desiderio di mangiare pane semplice e companatico, quanto basta per la salute e per il benessere fisico? Credo. Il desiderio del pane è tuttavia necessario per duplice ragione, sia perché è utile e sia anche perché, se non lo si soddisfa, si può interrompere il corso della vita. Sì, il desiderio invece di companatico solo se fa bene alla salute, indubbiamente. E cosa ti pare di un desiderio che oltrepassi questi limiti, che si rivolga a ghiottonerie più squisite? È possibile certo farlo scomparire se lo si tiene in freno fin dalla prima età e se lo si sottopone ad azione educativa. In ogni modo si tratta di un desiderio dannoso per la salute, dannoso per l'anima e per l'acquisto di una vita spirituale in temperata armonia. Mi pare evidente, non conviene chiamarlo un desiderio necessario. Non c'è dubbio. E non diremo che questi desideri importano continuo dispendio? Gli altri invece diremo utili per il fatto che servono alla vita. Sì, e questo vale anche per i piaceri d'amore e per gli altri, anche. E non credi che l'individuo da noi detto fuco sia appunto un uomo tutto dedito a simili piaceri e a simili desideri, un uomo insomma schiavo di desideri non necessari? Invece l'uomo tirchio e oligarchico è sottoposto ai necessari desideri. Sì, ma perché questo? Riprendiamo il punto sospeso e vediamo in qual modo l'uomo democratico derivi dall'uomo oligarchico. Mi pare che per lo più il processo sia il seguente. Quale? Quando un giovane, cresciuto come dicevamo, un giovane non educato e tirchio, arriva anche a gustare il miele dei fuchi e si trova a dimorare con belve ardenti e feroci, capace di procurarsi piaceri di ogni genere, d'ogni varietà e di ogni specie. Insomma, credi pure, qui è per lui principio di moto involutivo dalla forma oligarchica verso la forma democratica. Inevitabile involuzione, rispondeva. Del resto, come la Costituzione si involve quando lo straniero interviene quale alleato per aiutare una delle due fazioni, alla stessa guisa anche il giovinetto involve propria natura quando un certo tipo di desideri venga da fuori per aiutare una delle due fazioni che sono in lui, precisamente un tipo di desideri che ha la stessa natura ed è uguale alla fazione alleata, senza dubbio alcuno. E, supponi, un qualche alleato viene a portare aiuto e possibilità di reazione al partito oligarchico che c'è in lui. Questo aiuto può provenire, mettiamo, da parte del padre. Anche i parenti possono fargli qualche ammonimento e qualche censura severa. In tal caso sorge in lui sedizione violenta e battaglia interiore. Sì, e allora? Può avvenire allora che il Partito Democratico si ritiri di fronte all'oligarchico. Alcuni desideri scompaiono, altri sono espulsi, esuli. Nell'anima del giovane c'era infatti rispetto ancora e pudore. Bella si fa di nuovo quell'anima. Sì, qualche volta avviene, rispondeva. Talvolta invece questi desideri cattivi restano, sì, in esilio, ma altri ne sorgono affini e crescono nascostamente perché il padre non sa educare. Divengono folla violenta e forte. Purtroppo, rispondeva, qualche volta avviene proprio così. Ma allora lo trascinano alle abituali compagnie. Di nascosto questi desideri si accoppiano. Ecco una nuova folta prole. Sì, e poi? Poi, io credo, finiscono per conquistare l'acropoli di quel giovane, quando si accorgono che è vuota di cognizioni, di belle costumanze, di parole vere. Sono questi, vedi, gli ottimi custodi, le ottime scolte nella mente degli uomini cui Dio è amico. Oh, non c'è dubbio, rispondeva. Parole e opinioni mendaci e fatue, credo, salgono di corsa al posto delle prime. Ecco, occupano quella stessa acropoli. Purtroppo, rispondeva. E allora il giovane va di nuovo verso quella terra dei mangiatori di loto e presso questi sfacciatamente prende dimora. Supponi, dai suoi di casa perviene un qualche aiuto per quel partito che tende al risparmio. Ma allora quei fatui ragionamenti chiudono pronti le porte nella cinta regale del muro, tengono lontana ogni spedizione di soccorso e non vogliono ambascerie da anziani privati cittadini che potrebbero esprimere un consiglio. Fatui finiscono per vincere la battaglia. Cominciano a mettere il nome di stupidaggine al buon contegno e al pudore. Li cacciano esuli, disonorati. Chiamano viltà la temperanza di interiore armonia. Calpestata, cacciano a forza pure questa. Ogni concetto di risparmio misurato e ordinato è per loro illiberale e rozza avarizia. Convincono il nostro giovane che così è. E ogni concetto di risparmio dilata i confini in bando. Prestano aiuto numerosi altri desideri inutili. Sì, purtroppo. Compiuta quest'impresa, vuota e ignuda, senza più queste virtù, l'anima resta. I fatui hanno fatto l'epurazione, ne prendono possesso e s'accingono a iniziare quell'anima ai grandi misteri. Ecco allora violenza oltracotante, disordine, dissipazione, sfrontata impudenza. I fatui conducono dentro le nuove compagne tutte scintillanti, cinte di corone, seguite da corteo. Allora, lodi, parole dolci e vezzi. Allora la tracotanza si chiama educazione perfetta, la dissipazione magnanimità, la sfrontatezza fortezza. Non credi, conclusi, che qualche giovane allevato a soddisfare i piaceri necessari trapassi da questo stato a sfrenata libertà di piaceri non necessari e inutili? Si capisce, disse lui, anche troppo chiaro. In conseguenza, credo, dopo questo momento, il giovane passa la vita profondendo denaro, sforzi e tempo per soddisfare indistintamente piaceri necessari e non necessari. Se è fortunato, quell'orgia disordinata può non arrivare all'estremo, allora procede avanti negli anni e tutta la furia di quel tumulto passa via e una parte anzi di quegli esuli torna a raccogliersi in patria. Il giovane, insomma, non si dà in braccio totalmente agli invasori, instaura al contrario un regime d'eguaglianza tra i vari piaceri e per tal modo può tirare avanti, affida cioè il dominio di se stesso a quella passione che prima gli si presenta, come se fosse eletta da un sorteggio. L'incarico permane finché quella abbia avuto il suo sfogo, e poi ne succede un'altra, e nessuna è disprezzata, ma tutte per egual modo trovano onore. Oh, certamente. D'altra parte, ripresi, ammesso anche che qualcuno gliela dica, non accetta parola vera né le permette di penetrare fino al posto di guardia. Gli si potrebbe far osservare che vi sono piaceri cui si accompagnano onesti desideri e belli, ve ne sono invece compagni a desideri malvagi. Fargli osservare che conviene praticare e tenere in pregio gli uni, gli altri invece castigare e far servi. Ma lui, il nostro giovane, dice di no e continua ad affermare che ogni piacere e ogni desiderio sono uguali e che conviene prestare a tutti uguale atto d'omaggio. Rispondeva, trovandosi in tale condizione, certo farà così. E allora, gli dissi, la vita trascorre così, alla giornata. Si presenta un desiderio, gli fa buona accoglienza. Ecco allora si dà al bere e alla musica allegra. Ma quando diventa astemio, fa digiuno e dimagrisce. Poi gli viene il tifo della vita sportiva, quindi ozio completo, inerzia totale. Da ultimo pare persino che sia immerso nella filosofia. Non mancano anche velleità politiche, salta nella tribuna, parole a caso, azioni senza coerenza. Può anche guardare con interesse talora uomini di guerra. Ecco allora che precipita da questa parte. Uomini d'affari? Ecco, lo stesso. Nessun senso di ordine, nessuna coerenza di necessità in quella vita. Soave, liberale, beata egli la chiama e cerca di goderne senza interruzione. Oh, disse lui, hai esposto perfettamente la vita dell'uomo eguaglianza. Sì, e credo pure una vita multiforme, colma di caratteristiche d'ogni genere, e credo l'individuo che stiamo cercando è questa così bella, questa così variopinta creatura, proprio come la città variopinta era e bella. Uomini e donne in folla guarderanno invidiosamente quell'esistenza che in sé contiene paradigmi innumerevoli di costituzioni e di caratteri. È proprio così, rispondeva. Senti, corrispondente alla democrazia, poniamo dunque questo nostro uomo e tutto sarà finito. E il nostro uomo sarà giustamente chiamato democratico. L'ho già belle posto, concludeva. Allora gli dissi, dunque ci manca da esporre la forma di costituzione più bella e l'individuo più bello, tirannide e uomo tirannico. Senza dubbio, sì, rispondeva. Su via, allora, qual è lo svolgimento nel caso della tirannide? Mi pare evidente che proceda dalla democrazia, evidente, e forse pressappoco anche nella stessa maniera. Come dall'oligarchia proviene la democrazia, così dalla democrazia la tirannide. Come? Ricchezza senza misura, ripresi, era quel bene che proponevano alla loro esistenza e in vista del quale veniva stabilita l'oligarchia. Non ti pare? Sì. Era stato dunque l'insaziato desiderio di ricchezza e quindi ogni altra idealità trascurata pur di far denaro. Ecco rovina dell'oligarchia. È vero, rispondeva. E non credi allora che un altro particolare bene, pur tanto desiderato dalla democrazia, in quanto lo si concupisce senza misura, sia proprio questo bene che dissolve la Costituzione democratica? E qual è questo particolare bene? La libertà, continuai. Hai udito certamente che in uno Stato democratico questo è il più bello di tutti gli ornamenti. Per tale motivo, anzi, si dice, una natura libera può sentirsi a suo agio soltanto se prende dimora in questa città. Sì, rispondeva, quest'argomento è ripetuto sovente. E non è forse vero che l'insaziabile desiderio di questo bene, e ciò appunto intendevo dimostrare, come d'altra parte il disprezzo per gli altri desideri, altera l'aspetto di questa Costituzione e apre la via fatalmente alla tirannide? Come, rispondeva, quando, credo, una città democratica, sitibonda com'è di libertà, trova per l'ossa sete coppieri malvagi, avviene allora che tutta si inebria, oltre il giusto, di pura e schietta libertà. Supponi allora che chi detiene il governo non sia troppo remissivo e che non consenta di elargire l'infinita libertà. Ecco i governanti posti sotto accusa perché si dà colpa d'essere malvagi e oligarchici. Sì, rispondeva, fanno anche questo, in quanto poi ai cittadini disciplinati sono coperti di disprezzo, gente che volontaria si fa serva, gente da nulla. Invece onore e stima, in pubblico e in privato, a uomini politici che ripetono le caratteristiche del popolo e a quanti nel popolo ripetono quelle dei governanti. Non credi che in tal caso la libertà si svolga fino al suo completo ciclo? Come no? Anzi, si insinuerà, ripresi, penetrando nelle case private, e finirà per ingenerarsi anche negli animali la licenza più completa. Come possiamo, disse lui, affermare questo? Per esempio, rispondevo, un padre considera se stesso del tutto uguale al figlio, egli che persino ha paura dei figli. D'altra parte, il figlio è uguale al padre, il figlio che non ha rispetto o timore dei genitori. Si tratta di un figlio veramente libero. D'altra parte, uguale il cittadino si ritiene al meteco e il meteco al cittadino. Un forestiero è lo stesso. «Eh già, avviene così», rispondeva. «Sì», gli dissi, «questa e altre conseguenze, piccole cose del resto. Il maestro ha paura degli alunni che frequentano la scuola e finisce per adularli. Gli alunni, invece, non tengono in nessun conto il maestro, e lo stesso va detto per gli istitutori. In una parola, i ragazzi si fanno simili agli adulti e contrastano con azioni e a parole discutono. I vecchi poi cedono in tutto ai giovani, arrendevoli in tutto e gentili, ne imitano anzi le abitudini, perché non vogliono essere retrivi e autoritari. Non c'è dubbio, rispondeva, ma c'è il colmo, amico mio, delle democratiche libertà. Ciò avviene nel nostro regime quando schiavi e schiave, comprati al mercato, si sentono liberi non meno dei padroni che li hanno acquistati. Mi dimenticavo poi di mettere in conto l'eguaglianza e la libertà di spose di fronte ai mariti e di mariti di fronte alle spose. Quale smisurata libertà! E allora, rispondeva, la sentenza d'Eschilo andrà bene. Diremo quello che ci viene sulle labbra. Sì, certo, continuai. Anch'io stavo dicendo così. Chi non ne avesse esperienza non potrebbe credere quanto più liberi siano in questa città, in confronto ad altri luoghi, gli animali domestici. C'è un proverbio, vedi, quale il padrone, tale il suo cane. Ecco cavalli, ecco asini che prendono l'abitudine di incedere liberamente e dignitosamente. E se per la strada non ci si tira in disparte, buttano a terra quanti incontrano. E tutto il resto, in proporzione, è grondante di genuina libertà. Sì, diceva lui, mi stai raccontando una cosa alla quale avevo pensato anch'io, quasi in sogno, si capisce. Quando vado in campagna mi capita spesso questo bel caso. In una parola, l'accumularsi di tutti questi caratteri rende, te ne accorgi bene, suscettibile l'anima dei cittadini. Se si fa una proposta che implichi un po' di disciplina, entrano subito in furore, incapaci di sopportare l'affronto. In conclusione, non si danno pensiero né di leggi scritte né di leggi non scritte. Non vogliono che sopra ci sia per nessun modo un padrone. Lo so, purtroppo, rispondeva. Questo è il principio, dunque, ripresi, caro amico, un principio così bello e così vivace donde tirannide a generazione, così almeno mi pare. Vivace, non c'è dubbio, rispondeva, ma qual è la seconda fase? Lo stesso morbo di cui soffriva l'oligarchia manda alla rovina anche qui. Un morbo che, date le favorevoli condizioni, nella democrazia si manifesta più grande e più violento, e questo morbo rende schiava la democrazia. È un fatto, qualunque eccesso suole produrre, come reazione, un grande mutamento in senso contrario, ciò nell'atmosfera, nelle piante, negli organismi animali, nelle costituzioni politiche, lo stesso. È naturale, rispondeva. Eh sì, l'eccessiva libertà per un individuo e per uno Stato si tramuta esclusivamente in eccessiva servitù. Sì, è naturale. Naturale dunque, continuai, che la tirannide non sorga da nessun'altra costituzione, soltanto dalla costituzione democratica. Dal culmine della libertà proviene insomma il selvaggio completo e più feroce. Sì, rispondeva, e vi ha giusta ragione. Ma non era questa, continuai, la tua domanda. Tu mi chiedevi quale morbo, insorgendo uguale nella oligarchia e nella democrazia, finisce col renderla schiava. Già, rispondeva, è vero. Accennavo a quella stirpe di gente oziosa e pronta a sciupare il denaro. Anzi, dicevo che la parte più forte fa da guida, la parte più fiacca si fa seguace. E appunto si tratta di fuchi, dicevo, fuchi in parte senza pungiglione, in parte lo hanno. Sì, è giusto, rispondeva. Queste due stirpi, quando nascono, sconvolgono ogni tipo di costituzione, qualche cosa di simile nell'organismo al catarro e alla bile. Il buon medico, come del resto il legislatore e l'accorto apicultore, debbono tener lontani questi due morbi. Come massima, cercar di evitarli, e ammesso il caso che non si possa ottenere questo, bisogna fare in modo che i fuchi, al più presto possibile, vengano eliminati una volta per sempre, magari insieme ai favi. Sì, disse lui, e in ogni modo. Allora, guardiamo in questo senso il problema, così ne scorgeremo più chiara la soluzione. In quale senso? Divideremo con la nostra parola una città democratica in tre classi. Del resto, la cosa sta così anche nella realtà. C'è una prima classe che sorge in seguito alla generale licenza, non meno che in una città oligarchica. È così, ma molto più violenta nella democrazia che nella oligarchia. Come? Questa classe, vedi, non viene tenuta in conto alcuno nell'oligarchia, è anzi lungi da ogni attività politica. Così riesce inesperta per mancanza d'esercizio e quindi debole. Nella democrazia, invece, questi fuchi, meno poche eccezioni, sono i veri padroni dello Stato. I più volenti e più accesi intervengono con la parola e con l'opera. E intanto gli altri, seduti attorno alla tribuna, continuano a fare ronzio continuo e non accettano assolutamente chi esponga opinione diversa. Ne risulta che in questo governo ogni problema, ogni questione, sono risolti quasi esclusivamente da questi fuchi. Purtroppo, disse lui. Ma inoltre c'è un'altra classe che può essere distinta nella massa del popolo. Quale? Quando tutti si buttano agli affari, i più bravi per lo più diventano assai ricchi. Naturale. Di qui, anzi, credo, i nostri fuchi succhiano in copia e con tutta facilità il buon miele. Certo, diceva lui, come vuoi che si possa succhiare da chi poco possiede? In conclusione, questi ricchi saranno le piante che offrono pascolo ai fuchi. Sì, una cosa di questo genere. Vi è poi la terza classe, la massa del popolo, operai e sfaccendati che poco o nulla posseggono. Massa, tuttavia, che, radunata in un'assemblea di regime democratico, ha grande autorità per il suo numero. È così, rispondeva, ma non le piace adempiere a questo ufficio se non può aver parte, pur piccola, di miele. Già, ma ne ha sempre parte, ripresi, in quanto si capisce i capi riescano ad averne in copia, portandolo via ai ricchi e distribuendolo al popolo. Sì, per tal modo ne ha effettivamente parte, disse lui. E queste persone, da cui cercano di portar via ogni avere, si trovano allora in continua necessità di cercare difesa, sia a parole nelle varie assemblee, sia coi fatti, come possono, come no. Ne viene un'accusa da parte degli avversari, anche se i ricchi non hanno intenzione di introdurre novità nella Costituzione. Si dice che tendono perenne insidia alla democrazia e che sono veri e propri oligarchi. Sì, e allora? Allora finisce così. Questi ricchi si accorgono che il popolo, pur contro volere, senza saper nemmeno come stanno le cose, ma ingannato da calunniatori, intende procedere per vie ingiuste. Allora avviene che, voglia o non voglia, finiscono per diventare veramente oligarchici. Non vorrebbero certo, ma quei fuchi, adoperando il pungiglione, producono proprio questa conseguenza perniciosa. Si capisce. E ne risultano allora denunce, processi, cause giudiziarie dalle due parti, purtroppo. E non credi che, in ogni caso, il popolo finisca col porre avanti, quale proprio capo, un certo tale che gli stesso nutre e al quale concede autorità grande? Sì, finisce in questo modo. Dunque, una cosa è chiara, ripresi. Quando sorge un tiranno, la semente germina da questa radice e da nessun'altra fiorisce. Il popolo cerca un protettore. È chiarissimo. E quale sarà il principio di cambiamento da protettore a tiranno? Mi pare che una cosa sia evidente. Quando il protettore comincia a fare quello di cui si narra nella leggenda, sul tempio di Zeus Liceo, in Arcadia. Quale leggenda? Si dice che chi arriva a gustar carne d'umane viscere, pur commiste a carni d'altre vittime, non può evitare di diventare un lupo. Non hai sentito questo racconto? Sì. E per questo protettore del popolo non avviene lo stesso. Arriva ad avere del tutto soggetta la folla. In tal momento non sa tenersi lontano da sangue fraterno e, intentando cause ingiuste, porta, secondo l'abitudine, gli avversari in tribunale e li condanna a morte. In tal modo annienta una vita umana e le labbra impure e la lingua gustano fraterno sangue. E poi il protettore continua con esilio o uccisioni, mentre firma decreti per abolire ogni debito, per dividere la terra. Non credi che quest'uomo, per inevitabile necessità, dovrà venire sopraffatto dai suoi nemici o volgersi alla tirannide e diventar così non uomo ma lupo? Fatalmente sì, rispondeva. E chi suscita la rivolta contro i ricchi è appunto costui, quest'uomo che sarà lupo. Costui. I ricchi, supponiamo, cacciano in esilio il protettore, ma a violenza, sopraffatti gli avversari, l'altro ritorna, e ritorna ormai tiranno. Vero. Oppure, supponi un altro caso. Non hanno possibilità di cacciarlo via, non riescono a ucciderlo, presentandolo al popolo in luce d'accusa, cercano invece di ammazzarlo a violenza, di nascosto e per insidie. Sicuro, disse lui, avviene così di solito. A questo punto, poi, chi si trova in tale pericolo comincia a tirar fuori la famosa richiesta a fondamento della tirannide, richiede cioè al popolo una milizia a guardia della sua persona. Si capisce, allo scopo che illesa proceda l'esistenza del magnifico protettore. Proprio così, rispondeva, e loro concedono. Grande, si capisce, il timore per lui, e grande invece la sicurezza per quanto potrà avvenire un giorno. Proprio così. Ma un personaggio facoltoso che, insieme alla ricchezza, ha l'accusa d'essere avverso al popolo, quando scorge questa combinazione, oh, allora, amico mio buono, secondo l'oracolo che fu dato a Ciro, sull'ermo sassoso fugge e non resta e nullo ha timore d'essere vile. Indubbiamente, rispondeva, forse poi non gli si concederà nemmeno di trovarsi una seconda volta in simile avventura. Certo, replicai, perché se si lascia prendere, puoi star sicuro, lo fanno morire, fatalmente, e quel famoso protettore e capo non se ne sta abbattuto, grande corpo immensamente steso, ma colpisce e butta giù altri molti e s'erge sicuro sul cocchio dello Stato. La conclusione? Eccolo invece di protettore, tiranno. Certo, farà così, rispondeva. E vuoi che passiamo in rassegna, continuai, l'immensa felicità dell'individuo e dello Stato ove tale creatura germoglia? Sì, certo, rispondeva, passiamo pure. Ecco, sono i primi giorni, i primi momenti, sorrisi e universali abbracci. Dichiara di non essere nemmeno per sogno un tiranno. Ha tanti, quanti ne incontra, promesse d'ogni genere, a quattr'occhi e ufficialmente, provvedimenti finanziari per sollevare dal peso dei debiti, provvedimenti contro il latifondo per distribuire terra al popolo e ai propri fedeli, e benignità e sorrisi e mitezza e finzione. Fatale conseguenza, rispondeva. Ma giunge poi il momento, credo, che le relazioni con i nemici esterni sono assai migliorate. Con gli uni ha fatto la pace, altri ne ha annientati. Insomma, da quella parte pace e tranquillità. Ma allora il nuovo tiranno suscita sempre qualche guerra. Sua meta suprema è che il popolo abbia intanto sempre bisogno di un protettore. Sì, naturale. E non forse anche allo scopo che, pagando tasse e tributi e diventando poveri, vengano senza scampo domati dalle necessità della vita d'ogni giorno, così assai minori i pericoli di congiure. Evidente, ma vi è un'altra possibilità. In lui sorge un sospetto. C'è qualcuno che nutre liberi pensieri, qualcuno che non darà il suo consenso al governo del tiranno. In tal caso il tiranno farà pure guerra, per aver modo con questa scusa d'annientare i suoi interni avversari, dandoli così in potere dei nemici. Insomma, per tutte queste ragioni, un tiranno si trova in necessità perenne di pescare nel torbido per fare una guerra. Sì, necessaria conseguenza. E se fa questo, non sarà più grande l'avversione dei suoi concittadini? Come no? Avviene allora che, se fra chi lo ha aiutato per raggiungere il potere ed è arrivato ad essere gerarca, vi è un cuore animoso, costui si mette a dire apertamente col tiranno e coi propri compagni come stanno le cose. Tutti del resto sono impensieriti profondamente per le conseguenze che gli eventi possono addurre. È naturale. E il tiranno deve eliminare necessariamente queste persone animose, seppur vorrà governare. In breve, nessuno sopravviverà. Non amici, non avversari, nessun uomo di valore. È chiaro. La sua vista, insomma, deve essere acuta. Si tratta di vedere bene chi è valoroso, magnanimo, chi intelligente, chi ricco. E l'immensa sua felicità consiste appunto in ciò. A tutti, fatalmente, voglia o non voglia, il tiranno deve essere nemico, deve tendere a tutti continue insidie, finché gli riesca di purgar lo Stato. «Bella purga davvero!» esclamò. «Sì», ripresi, «e contraria a quella che usano i medici per l'organismo. I medici, vedi, tolgono via l'elemento peggiore e lasciano quello migliore. Il tiranno fa il contrario». «Eh sì, par proprio una fatalità per lui, è in gioco il potere». «Stupenda veramente», continuai io, «questa necessità a cui il nostro uomo è incatenato. Gli è imposto di trattare con una folla d'uomini da nulla ed essere oggetto anche del loro odio, oppure non continuare a vivere». «Sì, è una necessità questa», disse lui. «E non credi che quanto più è invisa ai suoi concittadini per questo suo malgoverno, tanto più avrà bisogno di numerosi e fidati militi? Come no? E quali saranno allora i suoi uomini di fiducia?» «Spontaneamente», rispondeva, «ne verranno a volo in gran numero, basterà che paghi». «Fuchi ancora!» esclamai. «Vuoi certo accennare a certa gente estranea e raccogliticcia?» «Sì», assentiva lui, «e dico la verità». «E chi è del paese? Il tiranno non vorrà forse... cosa? Togliere ai cittadini gli schiavi, farli liberi e prenderli come propria milizia? Sì, senza dubbio, perché saranno creature sue fidatissime». «Oh», ripresi, «e una cosa stupendamente felice capita allora al nostro tiranno, in quanto è costretto a servirsi di questa genia e considerar quest'uomini amici fidati. Tutti i precedenti amici sono andati perduti». «Ma è proprio così», rispondeva, «queste le sue amicizie». «E allora», continuai, «questi amici lo guardano con ammirazione. Questi nuovi cittadini fanno vita con lui comune. La gente per bene lo evita e lo sfugge». «E vuoi che non sia così?» «Non invano», dissi io, «la tragedia è poesia piena di sapienza arcana nella sua totalità. Euripide poi ha un posto d'eccezione». «Perché?» «Perché pronunciò questa sentenza che ha un profondo senso. Sanno i tiranni, frequentando i saggi». E certo intendeva dire che sono saggi coloro coi quali il tiranno abitualmente convive. «E per di più», rispondeva, «elogia la tirannide e la dice condizione uguale al divino, e altre cose simili, lui e gli altri poeti». «In conseguenza», replicavo, «i poeti tragici, per questa sapienza compatiranno certo se noi e i nostri compagni non desideriamo accoglierli nella nostra città. Sono celebratori di tirannide. Credo io, esclamava, ci compatiscono, quelli almeno che hanno la testa più fina. Cosa vuoi? Vanno in giro per le città, attirano e raccolgono una folla di uditori, pagano voci belle forti e capaci di impressionare. Il risultato? Fanno volgere le varie costituzioni alla democrazia e alla tirannide. Purtroppo, e anzi per di più, prendono lauti compensi e mietono onori in modo speciale, ed è cosa naturale, presso i tiranni, in secondo luogo presso governi democratici. Ma quanto più si va in su verso forme elevate di costituzione, di tanto questa rinomanza va diminuendo. Sembra quasi che, per respiro corto, sia nell'impossibilità di andare avanti. Certo, ma in ogni caso, continuai, la nostra è una digressione. Dobbiamo dire di nuovo i caratteri di quella milizia propria del tiranno. Com'è bella, com'è numerosa, com'è molteplice e sempre tramutantesi. E dove trova i mezzi per mantenerla? Oh, è chiaro, rispondeva, se vi sono in città tesori dedicati agli dèi, il tiranno pronto li spende, e se i proventi delle cose vendute gli saranno bastanti, potrà anzi provvedere perché il popolo paghi meno tasse. E cosa avverrà quando questo provento gli viene a mancare? Oh, è molto chiaro, rispondeva, con le sostanze di suo padre potrà ancora mantenere se stesso, i suoi convitati, amici e amiche. Capisco, assentì, il popolo che l'ha generato penserà a mantenerlo, lui e i suoi amici. Non c'è scampo per questo genitore, concludeva. E cosa ti pare? Continuai. Supponi che il popolo non veda di buon occhio tutto questo e gli dica: non è nemmeno giusto che tu, giovane, nel fiore degli anni, venga mantenuto da tuo padre. Il contrario, invece, dal figlio sia mantenuto il padre. Del resto, il popolo non l'aveva generato e non gli aveva dato il comando perché, una volta fatto adulto, il popolo dovesse, servendo i suoi stessi servi, mantenere lui, il tiranno, i suoi schiavi e l'altra gente raccogliticcia, bensì avrebbe voluto, approfittando dell'autorità del tiranno, esser liberato dall'influenza dei cittadini ricchi e influenti nello Stato. E ora il genitore dice ben chiaro al tiranno: vattene dalla città, te e i tuoi amici. Così farebbe un padre cacciando un figlio dalla casa, insieme con i suoi numerosi compagni di bagordi. Oh, il popolo imparerà a conoscere, disse lui, che razza di belva ha messo alla luce, quale belva ha accolto sorridente e ha lasciato diventare adulta. S'accorgerà allora quanto più deboli sono le proprie forze per cacciar via chi è più forte. Come intendi? Avrà il tiranno la faccia tosta di far violenza a suo padre, e se questi non gli bada, il tiranno lo bastonerà? Sì, rispondeva, ma prima gli porta via le armi. Tu affermi, ripresi, che il tiranno è un parricida, che, malvagio, non vuol saperne di mantenere il padre ormai canuto. Insomma, come pare, siamo di fronte senz'altro ormai a quella che comunemente si chiama tirannide, e, secondo il comune detto, il popolo, cercando di fuggire il fumo, è caduto nel fuoco. Voglio dire che, per non essere servo d'uomini liberi, finisce per servire a padroni che sono pur loro servi. Insomma, invece di quella infinita libertà, certo inopportuna, si è messo addosso la più grave e più dolorosa servitù, servo di servi. Purtroppo, diceva lui, così avviene. Senti allora, continuai, non sarà giusto se diremo d'aver ormai esposto sufficientemente il modo per cui la democrazia, involvendosi, si fa tirannide, così pure, una volta costituita, quale sia il carattere della tirannide. Ma certo, e con piena sufficienza, concluse.